Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Insigne c'è capolavoro! Rata! Rata incredibile! Capolavoro! Capolavoro al Bernabeu! Napoli in vantaggio! Carvajal, attenzione! Cerca il cross! Benzema! Rete! Rete! Benzema! Ha colpito! Era secco da sei partite! Da fuori c'è un gol incredibile di Casemiro, una fucilata che sorprende Reina. 3-1. Il problema è che si devono cercare delle alternative non alla vigilia della Champions ma prima, quindi si vuole troppo a un certo punto evitare la sperimentazione che invece è utile. Io sono tutti i giorni a Castelvolturno e sono quello che decide. Poi il presidente, chiaramente il presidente può avere la sua idea, la può esprimere, sono più contento quando l'esprimo a me. Questo non cambia il succo delle cose. A Castelvolturno ci sono io e decido io. E secondo me si è sperimentato tutto. Questo giorno così speciale è un po' amarognolo. Pierluigi Pardo mi è venuto a trovare. De Luca, notizie? Non abbiamo notizie. Come non abbiamo notizie? Non abbiamo notizie. Mi mando un messaggio WhatsApp. Siamo preoccupati? No. Allora, per la cronaca, visto che noi siamo sempre sul pezzo, appena finito il gigante femminile, una medaglia l'abbiamo presa, Goggia terza, Brignone quarta, quindi non rimaniamo col cucchiaio di legno in mano in questa edizione dei mondiali di St. Moritz, uno dei posti preferiti per Luigi Pardo, che è molto ricco. No, non è uno dei posti preferiti. Lo sapevo. Però insomma, settimana prossima. Però è un bel posto, insomma, perché non è che... È un brutto posto. Preferisco Ponza, però vabbè. Sì, anche Porto, dove andrai la prossima anche settimana. Anche Porto, dove andrai la prossima settimana. Maledetto, maledetto. Bella Porto. Ma è una volta che bella. Mi porti. Io ti porto a Porto. Porto. Poi sì. Io lo fa il programma, se siamo tutti da Porto. Facciamo da Porto. Porto. Portiamo anche De Luca a Porto. A Porto portiamo anche De Luca. Va bene, dai, partiamo. Senti, perché c'è tanto a dire. Il tuo onore abbiamo messo sugli schermi Mediaset Premium. Allora, non è stato il Napoli migliore, d'accordo. Il Real mi sembra, nei suoi leader, intendiamoci bene, un po' a fine ciclo, perché Ronaldo comincia ad avere i suoi anni, Sergio Ramos... Pure, quindi è un Real che può dare gli ultimi colpi di coda con il talento. La differenza l'ha fatta la qualità, soprattutto a centrocampo, mi è parso evidente. E poi anche un Real umile, un Real che è andato sotto, si è messo a correre. C'è tanta distanza. La partita ieri ci dice che c'è tanta distanza, più di quella che speravamo ci fosse. E io sono molto d'accordo con Sarri, con quello che ha detto Sarri, mi sembra lucidissima l'analisi della partita. Credo che lui si aspettasse qualcosa di più, tutti ci aspettavamo qualcosa di più. Forse, apro una piccola parentesi, tutta la letterarietà di questa trasferta, Maradona, Beltroni, Sorrentino, ha contribuito a generare un ottimismo e una... Poi il campo ha dimostrato che ci sono ancora un paio di lunghezze di differenza. No, poi come hai sottolineato più volte tu giustamente, il Real di queste partite ne ha giocate mille. Napoli molte, meno. E si è visto. E poi c'è un po' spartita che è tutto da commentare. Che forse è stata la parte più interessante. Sentiremo diverse voci, diverse dichiarazioni di Laurentiis, diverse risposte di Sarri, che secondo me, ripeto, ha ragione, perché... L'errore capitale sarebbe stato quello di cambiare qualcosa in questo Napoli alla vigilia della partita con Real Madrid, e nessuno mi muove da questa convinzione. Non è ancora tempo di far suonare Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, però il sogno è un po' ammaccato con questo 3-1. Il sogno è ammaccato, secondo me, paradossalmente, per come è andata la partita è anche un risultato accettabile, nel senso che comunque il 3-1 non è buono, ovviamente. Ma guarda, il Real Madrid è uscito 4 volte su 6 quando ha vinto l'andata 3-1, quindi questo ti dice che statisticamente non è un risultato così irrecuperabile per il Napoli, anzi è la percezione di quello che si è visto ieri, semmai, che può mettere un po' di panico, ecco, su questo. Questo secondo me è il tema, cioè se non è un 3-1 frutto di episodi, è un 3-1 frutto, certo, di una superiorità netta del Real Madrid. Certo, però certo. Fra 20 poteva giorni essere più largo, e su questo De Laurentiis ha ragione. Poteva essere più largo, è vero che Mertens poteva fare il secondo gol, ma è anche vero che il Real Madrid ne poteva fare 5. Sì, poteva finire 5-2 sta partita, dai, onestamente, non sarebbe stata una roba clamorosa. La sofferenza del Napoli sarà tanta. E fra 20 giorni può essere una partita diversa. Il San Paolo è uno stadio che fa la differenza, quindi io, certo, credo che devo dire, fra l'altro, i tifosi del Napoli mi sembra che siano portati benissimo, quindi questo va sottolineato, per salvo De Luca, che è stato arrestato da per vagabondaggio, dalla Guardia Civile, stato fermato per vagabondaggio. 800 24 00 24, naturalmente, per intervenire da ogni dove, Porto compresa, 800 24 00 24, mentre per scrivere 349 238 6666, numero verde. C'è chi scrive un WhatsApp: ieri Martens ha scoperto la differenza tra fronteggiare Gastaldello e Sergio Ramos. Martens ha anche avuto una palla gol che grida. Sì, sì, sì. Vabbè, ragazzi, questo lo sapevamo. Io ho fatto l'esempio di Bologna perché tatticamente poteva essere la stessa partita che il Napoli fa spesso, no? Quando va fuori casa. E come era successo a Bologna, come era successo a Milano contro il Milan, il Napoli ha trovato il gol subito. E quindi poteva essere fantastica. Non è stata così, però c'è poco da dire. Il Real è stato nettamente superiore. Quello che mi preoccupa è il post partita, perché il post partita rischia di creare però per una frattura. Non è il primo scherzo tra De Laurentiis e Sarri, ce ne sono stati molti altri, cioè sono un po' abbastanza abituati a questo rapporto, diciamo così, dialettico. Sì. No? Sì, sono abituati. E De Laurentiis è anche un po' come Berlusconi, un presidente che parla, bravo, molto. Quindi bravo. Bisogna, secondo me, quando parlano De Laurentiis o Berlusconi, bisogna fare un po' la tara. Una piccola tara legata al fatto che sono uomini di mondo, abituati a parlare e a discutere con tutti i personaggi più importanti della terra di tutte le, bravo, questioni. Non hanno una grande continenza dal punto di vista verbale, quindi dicono quello che pensano. Però sicuramente da ieri sera sappiamo che De Laurentiis non è del tutto soddisfatto di Sarri, cioè questo è oggettivo, no? Vabbè, ma anche Berlusconi non era del tutto soddisfatto di Carlo Ancelotti, non era del tutto soddisfatto di nessuno, certo, dei suoi allenatori, allora, Capello questo compreso, vero, qualche vero, volta vero, l'ha detto, lo ha esternato e così via. Prima di andare sul traffico e poi capire qual è l'umore dei tifosi napoletani, con un capostipite dei tifosi napoletani, nostro amico, a proposito di Carlo Ancelotti, ieri ha spazzato via il Wenger. Probabilmente potremmo anche, diciamo, sarebbe anche ora, no? Anche sarebbe ora pensionabile. Anche Zeman sarebbe pensionabile, è tornato a Pescara, no? Oh, insomma, voglio dire, finché a una persona offre un lavoro, sì, diciamo, legalmente, e questa persona se lo prende, fa bene a prenderselo. È una mossa molto mediatica, diciamo così. Sì, mediatica. Insomma, io penso che il ragionamento che ha fatto Sebastiani è: la stagione è persa, la retrocessione è sicura, e quindi è giusto cominciare a pensare a lavorare per il futuro. Dici lavorare per il futuro con settantenne? Sì, perché Zeman è uno che ha un certo tipo di livello e per un certo tipo di progetto ha dimostrato di essere ancora bravo. Zeman è sempre mancato quando doveva fare il salto di qualità, cioè Zeman non è mai riuscito. Secondo me non si è tanto rinnovato negli anni, cioè il punto fondamentale è questo. Chiaro. Zeman degli anni 90 era una novità assoluta, poi quando hanno cominciato un po' a capirlo è rimasto la novità assoluta degli anni 90. Ecco, detto questo, quando era 5 anni fa, la penultima esperienza importante di Zeman è stata fenomenale a Pescara, perché quell'anno, certo, lì, insomma, con Immobile Verratti, ha fatto delle cose straordinarie sul piano dei risultati e sul piano della crescita dei giocatori. Quindi Zeman per me rimane un maestro di calcio, che probabilmente non è, anzi, secondo me, certamente si è mostrato inadeguato per le grandi squadre, quando ha avuto la possibilità di allenarle, e probabilmente non si è molto rinnovato, ma che in un certo tipo di progetto con dei ragazzi giovani, umili, può essere ancora un'idea non sbagliata. Se questo è il tipo di progetto, io penso che sia questo, che tornare rapidamente in Serie A valorizzando i giovani. Ma prima del traffico, poi ne parliamo naturalmente. Ieri sera Carlo Ancelotti ha fatto capire a tutti, e il suo Real Madrid hanno fatto capire a tutti, di essere la favorita, forse il numero uno di questa Champions. Sì, o troppo debole l'Arsenal di Wenger, soprattutto con gli infortuni che gli hanno tolto una faccia. Insomma, io non avevo nessuna speranza per ieri sera, e magari 5-1 pensavo un po' meglio si potesse fare, però sicuramente non c'è discussione. Insomma, l'Arsenal è una squadra forte ma in calo, una squadra che tutti gli anni continua a riannodarsi su se stessa, perché continua a comprare giovani, valorizza, qualcosa di buono c'è, ma non c'è mai una quadratura. Io credo che Wenger abbia fatto il suo tempo, lo penso da qualche anno. Da qualche anno, bravo. E adesso dirlo stamattina probabilmente è un po' più facile. Ci fermiamo per il traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Che bello sentire Pardo in studio, l'audio è perfetto, con un sacco di O. Guarda, c'è il messaggio di De Luca via WhatsApp. Innanzitutto è vivo e questo ci fa piacere. Vivo? Sta bene. È a piede libero. Io ho scritto tutto bene, amico mio, e lui risponde tutto bene, esperienza bellissima, mi spiace per il post, perché qui ci siamo comportati benissimo tutti. Io dico, che post? De Laurentiis? Perché il post, sai, può essere un post su Facebook, eccetera, invece no, il post partita. Sì, una ferita alla stagione. Questo disse De Luca da Madrid. Probabilmente emborracciato. Sì. Ubriaco. Però dai, non so cosa ne pensi il professor Sollazzo. Ma io ve lo dirò in gergo, sono incazzato nero. Proprio così, con un toccata pianissimo. Non per la partita dove ce la siamo giocata, alla fine del primo tempo stavamo 1-1. Chiaramente loro sono degli alieni che facevano dei cambi di gioco a 40 metri attaccandosela al piede. Sì, tu hai Diawara che 2 anni fa giocava a San Marino, adesso gioca, esatto. Loro hanno cross, ieri Diawara, insomma, io credo che il prossimo anno potrebbe giocare al Bernabeu tutte le domeniche probabilmente. Sì. Però detto questo è stata un'esperienza bellissima, come dice Giorgio, una partita secondo me in cui il Napoli ha fatto tutto quello che poteva fare con le forze che aveva in questo momento, in cui l'allenatore del Real Madrid, invece di sottovalutarsi, si è studiato benissimo la partita. È vero. E quindi, di fatto, adesso può sembrare paradossale, però tu sei andato al Bernabeu e l'allenatore del Real ha giocato su di te, cioè ha giocato facendo un controgioco. Uh-huh. È una grande squadra come il Real Madrid che lo fa, è già un onore. Questo avrebbe dovuto dire De Laurentiis, e invece ha detto una serie di stupidaggini una presso all'altra, che come dice Giorgio probabilmente sono una ferita mortale a questa stagione. Allora, perché poi parliamone con calma. Allora sentiamone una presso all'altra. Un primo De Laurentiis: bisognerebbe mettere da parte la presunzione e avere un po' più di umiltà, però io questa sera vedevo proprio che non c'erano, non ci stavano. Vabbè, non mi fate però giudicare uno per uno i vari calciatori, perché sennò sembra che uno li voglia castigare e punire, mentre invece è proprio tutta la squadra che non c'è stata. Una presso all'altra, c'è anche una risposta di Sarri, mi pare, in questo. Ha detto la cosa giusta, il responsabile dal punto di vista tattico e tecnico sono io, e quindi se ha qualcosa da dirmi me lo dirà nei prossimi giorni. Io l'ho detto negli spogliatoi, il presidente era anche molto sereno, mi ha detto che mi chiamerà nei prossimi giorni perché parte per gli Stati Uniti, ma ho visto una persona estremamente serena. Quando mi dirà quello mi deve dire, io gli darò le risposte che gli devo dare. C'è un altro De Laurentiis? Difatti nessuno ha detto che avrebbe dovuto giocare Milik al posto di Mertens. Il problema è che si devono cercare delle alternative non alla vigilia della Champions, ma prima. Quindi si vuole troppo a un certo punto evitare la sperimentazione, che invece è utile per capire le proprie forze, le forze di una compagine di ben 26 giocatori in uno spogliatoio e non di una linea corta come quando c'era Mazzarri. Una catena corta come quando c'era Mazzarri. Allora, io torno a ripetere, Sarri benissimo ha fatto nel riproporre i suoi giocatori, la sua formazione, il suo modulo, perché non si sperimenta. Ragazzi, la formazione era quella. Io credo, allora, Siccome poi il calcio è liquido, ogni giorno le cose cambiano e poi sembra che uno si scorda il pezzo prima. Premesso che De Laurentiis è un grande presidente che ha riportato il Napoli a dei livelli incredibili e per certi versi, in certe situazioni forse non c'era mai stato, al di là del fatto che ha vinto due scudetti, però insomma siamo su quei livelli lì, l'ha preso da zero e l'ha portato, quindi questo è il punto di partenza. È un uomo che parla molto, che è un po' incontinente dal punto di vista verbale, che è abituato a parlare con tutti i grandi, da Tarantino a Maradona, quindi cioè, ha una sua visione e mi piace anche il fatto che sia schietto nel dire le cose. Però è chiaro che quello che dice ieri rischia di destabilizzare, rischia di complicare, secondo me serve a poco, ha ragione Sarri quando dice me lo preferisco se me lo dice a quattro occhi. Sarri ha qualche piccolo difetto, ma sono delle pagliuzze. Cioè, sì, la verità è questa, che Sarri non sia il mago del turnover, lo diciamo da un anno e mezzo, che Sarri non sia da questo punto di vista abituatissimo a gestire un gruppo, una rosa da 20-25 giocatori, è evidente, anche comprensibile, no? Ed è anche comprensibile perché non ce l'ha mai avuto. Non ce l'ha mai avuta, cioè, qualche piccolo quest'anno difetto. Quest'anno non è neanche vero perché Maximovic ti segna a Crotone, Giaccherini ti fa due gol, sì, però lui entra, Boris, lui entra va avanti a blocchi. Cioè lui va avanti a blocchi, nel senso, cioè lui Diawara non gioca mai, poi dopo due mesi e mezzo si trova nell'emergenza, lo mette e poi non lo toglie per più. Due mesi. Non è vero, no, per Luigi hanno fatto blocchi di 4-5 partite di Diawara e Jorginho alternati da Juventus Napoli in poi, cioè queste 18 partite. Dopo sì, ma per vedere Diawara ci sono voluti due mesi e mezzo. Ma ragazzi, a 19 anni Diawara, ma sì, mi dite quale giocatore, quale allenatore avrebbe messo un 19enne, tra l'altro anche diciamo tendente all'imprudenza, grazie a Dio, per fortuna la sua incoscienza ieri ci ha salvato, in campo al Bernabeu. Stiamo parlando di dell'allenatore ideale per tutto quello che De Laurentiis ha detto in questi 12 anni. E ve lo dice uno, e lo sapete, che a De Laurentiis non solo è grato, ma che gli dà tendenzialmente sempre ragione. Ma ieri ha tradito se stesso De Laurentiis, perché quando De Laurentiis dice che Sarri non gli va bene, perché questo dice purtroppo. Non dice così. Boris, ma tu sai benissimo che la dialettica tra Sarri e De Laurentiis è sempre stata di questo tipo. Ragazzi, però aspettate, non è una dialettica, perché lui che cosa gli dice? Dovevi mettere Pavoletti, questa è la cosa che gli sta dicendo, perché io ho speso 16 milioni di euro a gennaio e a questo punto ho capito di averli spesi inutilmente. Allora, De Laurentiis, che è persona intelligentissima, dovrebbe pensare che se Diawara, Zielinski, Mertens e Koulibaly adesso, se li vendi in blocco ci fai 220 milioni di euro e li hai pagati poco più di 40, certo, è merito di Sarri. E se ti ha fatto spendere 16 milioni di euro di più, puoi sopportarlo andandoglielo a dire in ufficio a Castel Volturno e non davanti a tutti. Così io fossi Sarri me ne andrei tranquillamente, perché dice non esagerare, Boris. Non è una cosa da grande presidente, tant'è vero che Lombardo, il suo direttore della comunicazione, cerca di dire che lui non le ha dette quelle cose. La tua stessa voce cerca di rinnegarti, cioè, sono molto gravi, ma sono gravi anche le cose che dice: se sperimentiamo tanto ne vinciamo 11 su 12, cioè dà per scontato quello che è stato fatto in due anni in cui il Napoli è andato oltre le sue forze, in cui ha sopportato assenze assurde, cioè Higuain e poi Milik. Quest'uomo Sarri avrà pure i suoi difetti, ma ha fatto in questi due anni due miracoli, li sta facendo, e tu lo delegittimi nella sua partita più importante della carriera, dove comunque non è uscito con un 7-1 come altre squadre, ma è uscito con un 3-1 sono d'accordo, andando in vantaggio. Darsene, quella scelta sua, ma non, però che gli possa rodere parecchio per sentire queste parole non credo ci siano dubbi, e in qualche modo anche quello che dice Reina dopo è una specie di dimostrazione, un grande leader, di dimostrazione definitiva, cioè quello chiude qualsiasi discorso. Cioè, se uno poteva avere il dubbio su se queste parole fossero state utili per l'ambiente oppure no, Reina ti dice esattamente no, perché è chiaro che un discorso del genere al gruppo non piace. Poi ripeto, secondo me su alcune cose nello specifico della Laurentiis può anche avere ragione, però sono elementi secondo me marginali, sono piccoli difetti di un grande allenatore. E poi mai come in questa circostanza la forma è sostanza, cioè il fatto che il timing di questa presa di posizione che arriva pochi minuti dopo il fischio finale di una partita così importante non è un dettaglio. Sapete perché succede? Solo per un motivo, perché per tre giorni lui è stato al tavolo dei grandi, si è sentito finalmente di nuovo al centro del villaggio. con Maradona, con Florentino Perez, e come hai detto tu è diventato incontinente. Il problema è che le parole, citando Nanni Moretti, non sono importanti. Chi parla male pensa male e vive male, eh? Chi parla male pensa male e vive male. Che film è? Palombella rossa. Nanni Moretti, lo so a memoria. Marca Budavari. Senti, ecco. A proposito di Budavari, è più o meno quello che dicevo io con Benzema. Quell'immagine di Maradona nello spogliatoio, che sensazione va dato? Secondo me, allora, io forse la Sarri per l'idolatria di Maradona lo chiede in conferenza stampa, spero che venga a parlare. Poi Maradona, diciamo, non è uno che, come De Laurentiis, io credo che i due si siano caricati a vicenda, sa stare al suo posto, forse andare a parlare negli spogliatoi e non magari il giorno prima, forse è stato esagerato, però credo che in una situazione del genere comunque non può non far bene a un giocatore. A me è un po' turbato, e lo dico con la cosa ti ha turbato? Però Sarri l'aveva chiesto, quindi non è un interesse. Infatti mi aveva anche turbato che Sarri lo chiedesse in conferenza stampa. Anche io, te lo dico con chi ci ascolta lo sa, tutti i giorni io sono devoto di Maradona, nel senso che lo considero un genio, e tutti quindi quanti, voglio dire, controverso, discusso, discutibile, ma un genio, è un uomo di un carisma incredibile, quindi non è che non capisca. Però, insomma, non lo so, cioè dal punto di vista letterario, questa tre giorni, caso di De Luca cinque giorni, adesso un po' lo sentiremo, prima o poi dovrà tornare, è stata meravigliosa. I napoletani si sono comportati benissimo, sì. Una grande dimostrazione di affetto, una grande dimostrazione di civiltà, un viaggio bellissimo, le eccellenze di Napoli, tutti quelli che amano la città, che vanno con il presidente De Laurentiis, cioè è stata una cosa, una meraviglia. Dal punto di vista tecnico, io non vorrei che tutte queste cose extra calcio possono aver, non lo so, distratto caricato troppo entusiasmo, troppa fiducia, troppa consapevolezza, non lo so, è un discorso aperto, è un brainstorming, cioè ognuno non ho certezze. Io ho il terrore che il giorno in cui dovevi diventare grande tornerai irrimediabilmente piccolo, perché poi il grande sospetto che ho, siccome non credo tanto all'incontinenza totale di De Laurentiis, io credo all'intelligenza di De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto una tattica negli ultimi 6 anni che è sempre stata la stessa: nel momento in cui qualcuno subdorava che se ne andasse, cominciava a delegittimarlo in pubblico. L'ho fatto con Lavezzi, l'ho fatto con Cavani, l'ho fatto con Higuain, l'ho fatto con Mazzarri, l'ho fatto con Benitez, e adesso rischia di farlo con Sarri. Allora, o Sarri si è già messo d'accordo con il Milan, con la Juventus, con la Fiorentina, visto che Sportiello e Ferrara sono andati alla Fiorentina, si potrebbe pensare una cosa del genere, e quindi lui cerca di togliergli la terra sotto i piedi. E allora mi chiedo, però, con questo gruppo, con questa squadra, con questi valori, qual è l'allenatore che può venire? Non mi dite Montella, perché se Montella gli dà fastidio che Berlusconi lo chiama senza dirlo ai giornali, perché nessuno sa i contenuti delle telefonate tra Montella e Berlusconi, mi chiedo che cosa può pensare di un presidente che invece le telefonate gliele fa in pubblico. Però c'è anche da dire una cosa, che questa volta, secondo me più di altre volte, l'effetto delegittimazione non è che ha funzionato molto, nel senso che non solo Mannheimer o Piepoli, però mi sembra dai primi exit poll che la larghissima parte dell'opinione pubblica dei tifosi di Napoli stia con Sarri. E quindi sai, la delegittimazione... Anche perché è un gioco vecchio, ragazzi. Cioè è un gioco vecchio, il napoletano, il tifoso napoletano l'ha anche imparato. Ma anche perché esiste, secondo me, una cosa molto semplice, che è non mettere in difficoltà qualcuno che è in un momento di difficoltà. Allora, tu hai detto benissimo, per Sarri ieri è la partita più importante della sua vita, e anche ammesso che abbia fatto degli errori, probabilmente li avrà anche fatti, perché tutti siamo fallibili, però insomma, fare oggi queste critiche pubbliche senza nemmeno farle immediatamente. C'è anche una componente ovviamente invece che mi piace, dell'uomo che comunque ha le sue emozioni e non se le tiene. Questo mi piace di De Laurentiis, nel senso che non è però può essere un gioco, nel mondo del calcio siamo abituati da sempre a lamentarci un po' di quei giocatori che non dicono niente, che hanno paura, che tirano. De Laurentiis è quello che cosa dice, no? Si è detto pure un po' troppo. Boris, grazie, buon ritorno. Gli altri, cioè, non lo facesse col suo allenatore. No, sono d'accordo. Cioè, io sono d'accordo da giornalista, sono contento quando dice che Messi è un cretino, come fece nel ritiro, è divertente, mi diverte anche la poltrona in pelle umano dello stadio, ma cioè essere autolesionisti, perché poi parliamoci chiaro. Sono d'accordo. Portare avanti questo tipo di rapporti, come è successo con Benitez, alla fine ti fa perdere tutto. E invece il Napoli diciamocelo, è un'impresa quasi impossibile, però esce dal Bernabéu con la speranza fondata di potercela fare. Sì, chiaro, ancora, è una speranza. È un sogno ammaccato, è un 20%, sono d'accordo. Boris, grazie. 15-20%. Fermiamoci per la borsa. Non è il 2%. Fermiamoci per la borsa. Grazie a Boris Stollato. Tutti convocati. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Ormai dovresti sapere che abito qui. Sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Basta provare. La radio è già avanti, non restare indietro. Scopri subito la magia della Digital Radio. Forse è già nella tua auto. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB! Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Tutti convocati. Che non ha giocato in maniera poi così straordinaria. Anche se proprio la nostra inadeguatezza serale poteva permettergli di fare 5-0, quindi diciamo che ci è andata di lusso, perché poi quando arriveremo nella bolgia di Napoli e probabilmente segneremo il primo gol, gli altri potranno andare viceversa in così confusione. Quindi io credo che nulla è perso. Io non sono d'accordo, la squadra ha fatto una buona partita, avevamo di fronte campioni d'Europa, campioni del mondo e quindi un potenziale offensivo enorme, e quindi la partita che sarebbe stata complicata lo sapevamo anche prima. L'unico punto che io posso fare alla squadra è che dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato molto di più di quello che sbagliamo solitamente. Anche qui d'accordo con Sarri, questo è un altro estratto della, sì, di un argomento che d'accordo anche con De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis dice che è andata di lusso, e sono d'accordo, per come si era messa, sì, andata di lusso, e che è ancora giocabile. Su questo sono d'accordo con De Laurentiis, sul resto non tanto, ma su questo sì. Sì, anche con Sarri quando dice che si è sbagliato un po' troppo rispetto, sì, sì, agli standard abituali del Napoli. Siamo rimasti un po' delusi, dai, tutti, sì, siamo rimasti un po' delusi, sì, soprattutto, cioè, l'aggravante è come si era messa la partita, perché, sì, al di là del fatto, sì, che non è che è stato lo Spirito Santo a regalare il gol, ma il talento di Insigne e la strana uscita di Jesus Navas. L'invenzione, sì, di Insigne, sì, perché avere la, cioè, quell'intuizione lì è geniale. Stavo vedendo in diretta, tra l'altro, in questo momento. Esattamente. Sì. Allora, uno che c'era l'altra volta che Napoli è andato a Madrid, altra storia, altro non De Laurentiis Sarri, ovviamente, altro Napoli Real Madrid senza pubblico, c'era Maradona in campo, 2-0, uno che sta a pieno titolo in ogni presepe di via San Gregorio Armeno. Bruno Giordano, buongiorno. Ciao, buona giornata a voi. Ciao Bruno, ciao. Come va? Ciao, bene, ascoltato le parole. Che a questo Napoli sia mancata l'umiltà e la consapevolezza di chi andava ad affrontare. Io penso che ci dobbiamo rendere conto noi che il calcio italiano è di un livello molto mediocre, e chiaramente il Napoli insieme a uno a Juventus e Roma domina in Italia, ma è il campione. In Europa ci sono altri campionati sicuramente migliori dei nostri, e noi, certo, dobbiamo rendere conto che un 3-1 al Bernabéu contro il Real è una partita che ti è andata anche bene. E in tutto questo, Bruno, c'è stato un po' di eccesso di ottimismo, un po' di entusiasmo? Poi, tu conosci, sì, Napoli e ami Napoli in maniera assoluta, come abbastanza normale per chi, sì, per chi, sì, ci ha vissuto, no? Fatto, no, ma hai parlato di un pizzico di un po' di presunzione del Napoli, dici? Sì, sì, molta, non un po', molta presunzione da parte delle parole del presidente, anche del dopo partita. Ah, ma anche della squadra? Anche della squadra, perché io quando leggo il prepartita e sento le interviste di Sarri che dice andiamo lì a imporre il nostro gioco, cioè un minimo di rispetto contro il Real Madrid, la squadra più forte del mondo, cioè credo che si debba andare con un pochino più di umiltà a giocare queste partite. Senti, poi dimostri di essere a livello superiore dopo che l'hai dimostrato, perché io credo che questo 3-1 sia nella norma di quello che si aspettava di chi mastica un pochino di calcio. Poi è chiaro, tifiamo Napoli, il tifoso si esalta vedendo il 7-1 di Bologna e tante altre cose, però se metti sul piatto i loro giocatori e i nostri, ci sono i 3-4 gol di differenza. Dici che Bologna-Real Madrid non sarebbe una partita facile per Donadoni, no? A parte le battute, diamo un bacio agli amici di Bologna. Però Maradona nello spogliatoio, che effetto ti ha fatto? Tu, insomma, tu lo conosci e sei amico di Diego. Sì, penso che pur essendo un amico, sei comunque, non sei immune al fascino, no? Al carisma di questo, di quest'uomo. No, ci mancherebbe. Però no, quell'immagine lì, che roba è? Non lo so, non riesco ancora a decifrare, però chiaramente avrà portato delle motivazioni in più, insomma, vedersi questi ragazzi, Diego là dentro lo spogliatoio, avranno pensato abbiamo un altro al nostro fianco, insieme ai 10.000 che sono sugli spalti e tutti i tifosi napoletani sparsi per il mondo. Credo che abbia fatto un bel effetto. Sì, però Bruno, mi permetti, io sono abbastanza d'accordo con totalmente d'accordo con Pierluigi quando dice strano, no, che Sarri chieda aiuto a Maradona, viene nello spogliatoio a parlare. A me ha fatto strano, poi Maradona è l'eccezione a qualsiasi regola, anche quindi a me ha fatto strano. Però ecco, diciamo che c'è un po' di cinema, capito, cioè. Il presidente è bravo, anche perché se tu vuoi fare una cosa così lo fai in albergo, dal momento che Diego alloggiava stesso albergo della squadra, quando c'è la riunione tecnica alle 6 di pomeriggio vai lì, dici due parole, certo. C'è molto cinema, anche perché appunto poi escono le immagini. Presidente, in questo sappiamo che è bravissimo a fare questo tipo di spettacolo. No, è stata per Napoli, anche lo ribadisco per la terza volta in questa trasmissione, ma credo vada riconosciuto, perché erano tanti, alcuni erano senza biglietto, quindi anche dal punto di vista dell'ordine pubblico è stata veramente una pagina bellissima, bellissima, che secondo me fa comunque del bene all'immagine di Napoli nel mondo. Vedere Sorrentino, Orlando, Maradona, cioè, questo è bellissimo. Vedere Maradona fisicamente nello spogliatoio e sentire Sarri in conferenza stampa il giorno prima, insomma, non lo so. Non vorrei che fosse stata un'ulteriore distrazione in una serata nella quale la concentrazione doveva essere totale. Poi è ovvio che stiamo parlando di un piccolo dettaglio, di una roba molto mediatica. E poi, come dicevo, è anche vero che, insomma, Maradona è l'eccezione a qualsiasi regola, nel senso che il suo carisma è talmente grande che onestamente forse avrà fatto anche bene, non lo so. Non lo so, tocca stare nella testa dei calciatori. Io credo che da calciatore, se avessi visto il mio mito Cruyff dentro uno spogliatoio e mi dice una parola, mi carica. Sì. Penso che anche a loro sia capitato questo. Infatti mi sembra che anche poi i primi minuti Napoli, tranne i primi 20 secondi dove il Reale poteva già fare gol, bisognava farlo stare in panchina allora. Bisognava metterlo dietro alla porta di Reina. Ma comunque credo che siano più preoccupanti, ti ripeto, le parole del dopo del presidente, certo. Perché se il presidente pensa che il 3-1 è dovuto alla pochezza del Napoli e non alla bravura del Reale, alla pochezza di Sarri, Bruno, alla pochezza di Sarri, perché cioè, mi sembra che la polemica spunto un Cruciani. Il signor De Laurenti. C'è Bruno Giordano. Non dico niente. Ciao Bruno. Ti saluta. Ciao. Saluta, ma rimane sulla porta. Rimane sulla porta. Dai, di una cosa al microfono. Ciao Bruno. Dai, qualcosa di espandi questo concetto. Ciao Bruno. No, ragazzi, Bruno. Ma ieri è stato un co-idolo da piccolo. È incomprensibile, sì, grande idolo. È incomprensibile quello che è successo. Cioè, Napoli comunque fa una grande, dico solo questo e me ne vado. Fa una grande partita, che per la fine è stata una grande partita, con occasioni da gol in casa del Real Madrid, la squadra campione del mondo e campione d'Europa. E tu, dopo la partita che fai, presidente del Napoli, invece di dire cavolo, ce la possiamo fare, dai, forza, ragazzi, fra 3 settimane. Possiamo farcela, il San Paolo, il Napoli, eccetera. Pure tu, pure Cruciani. Ma no, ma dai, vai là e massacri quello che è in questo momento l'unica speranza che Napoli possa passare, che è Sarri. Dai, su, è una cosa senza senso. No, ma anche e poi la riassorbiranno, spero che la riassorbano, ma insomma, è senza senso. Il tifoso napoletano questo si aspettava, un golletto per poter sperare una partita di ritorno, dal momento che il 3-1 ti permette molto meglio di 30 anni fa, perché noi 30 anni fa perdemmo 2-0 e per passare dovevamo fare 3 gol. Sì. Loro con 2-0 possono passare. Ma il risultato è dignitoso. Il risultato è dignitoso. Sì, come semmai no, come la, no, sensazione, la sensazione di differenza tra le due squadre, quella mi preoccupa di più. Ma quello lo sapevamo, però non è che ce ne accorgiamo oggi. Speravo un po' meno. Ma io no, io penso che sia stato anche, ci sia andato anche bene. Noi forse non ci rendiamo conto della forza delle altre squadre, perché noi vediamo poi dico noi, così tu le commenti tantissimo. E noi pensiamo che il campionato italiano sia ancora di un livello importante. Il nostro campionato è un campionato... Sì, però Bruno, non è che quello spagnolo, torte le prime tre in classifica, sia una meraviglia. Non è che quello francese, al di là della, del Nizza... Io penso che se porti le tre squadre prime spagnole in Italia, arrivano prima, seconda e terza. Forse arriverà la Juventus seconda o terza. Questo può essere, ma dal punto di vista del livello medio. Bruno, grazie, sentiamo presto. Ciao, a voi, ciao Bruno Giordano. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. Salvo da Siracusa, un attimo di pazienza, 800240024 per parlare, argomento che divide moltissimo questa querela tra Sarri e De Laurentiis. C'è Marco da Brescia che scrive: persino Mourinho ai tempi del Chelsea disse, a seguito delle critiche di Abramovic, che un allenatore non deve commentare le parole del suo presidente. Ora che un Sarri dica decido io, se mi deve dire qualcosa verrà a dirmela a Castelvolturno. Per me no, per Marco da Brescia no. Eri preoccupato per Giorgio De Luca. L'abbiamo recuperato. Eccomi qua. Come è andata, amico mio? Come sei stato? Sono stato benissimo, è stata una bella festa, una bella due giorni. Ma è più bello stare in Viale Monterosa con me e con Genta davanti, ragazzi, Capuano, perché ogni tanto è neanche Capuano. No, è più bello stare qui in Plaza Maior con Tancredi Palmeri, che adesso vi passo. Addirittura. Che domanda del cazzo fai, Pier? Sì, no, devo dire la verità, ragazzi, per me è stata un'esperienza bellissima. Due giorni favolosi in una Madrid soleggiata, piena di ragazzi napoletani. Ci siamo comportati benissimo. Ieri allo stadio il boato al gol di Insigne, più di questo. Poi è andata come è andata. Il post partita lo avrete analizzato sicuramente. È una Stiamo roba che ha lasciato scioccati molti di noi tifosi anche qui, che ci siamo comportati bene, abbiamo rispettato il tempio del calcio, il Bernabeu. Che dire, non lo so cosa avete detto sul post partita di De Laurentiis. Un sacco di cose. Io vorrei partire però con Tancredi da un ciao. Aspetta. Ciao Tancredi, come va? Quanto, ragazzi? Come stai? Come va? Bene, qua c'è già un certo sbozzo di croquetas, che devo dire veramente deleterio. Guarda, dai, che ho mangiato, ragazzi, una bresaolina a pranzo, sperando che mia moglie non ascolti. Non solo quello, ma noi sono due mesi che abbiamo 4 gradi a Milano. Ragazzi, qua si naviga sui 15 posso dirti, gradi. Posso, ti do una, no, Tancredi, devi stare calmo, perché io ieri sono tornato da dove? Da Parigi. Da Parigi. E ieri c'erano 15 gradi allineate e ho capito che è fatta. Ragazzi, è fatta. Abbiamo scollinato. Siamo già col gommone pronto. Cioè, è fatta. Ragazzi, è fatta. Poi adesso ci sarà qualche tentativo disperato d'inverno di romperci i coglioni, ma è fatta, è andata. Ecco allora perché l'imbarcata del Napoli. No. Invece il gommone, tweet di Tancredi Palmeri con la foto di Maradona nello spogliatoio. Posso dire che questa è una cosa senza senso? Che ne sa lui di quei ragazzi? Non è lui che ha sudato e faticato con loro ogni giorno? E poi chiarisci che questo è un ragionamento che fai per il bene che vuoi al Napoli. Sì, certo. Anche a me, l'ho detto già un paio di volte, con tutto l'affetto per Maradona, la devozione per Maradona, quell'immagine lì nello spogliatoio e la richiesta di Sarri in conferenza stampa mi ha un po'... Perché poi potevano incontrarsi in albergo, cioè mi è sembrato veramente un po' un cinema. Allora, secondo me, la richiesta di Sarri è una richiesta che fa buon viso a cattivo gioco, nel senso che Maradona gliel'hanno imposto in albergo. A quel punto gli chiedono di Maradona in conferenza stampa, lui non va certo a creare una polemica con la società il giorno prima, per cui, dovendo dire qualcosa, dice lui ha detto in conferenza stampa: spero troverà il tempo di dire alcune parole a questi ragazzi. Che già, se tu leggi nelle parole, magari siamo noi maliziosi, ma già se leggi nelle parole, come a dire, vabbè, l'ospite illustre qua, però era l'ospite illustre per la partita del Napoli, non per fare il giro turistico a Madrid. Poteva essere nel briefing il giorno prima, il pomeriggio, la mattina, in qualsiasi momento. Ma nello spogliatoio, ma pure se sei stato domine Dio, ed effettivamente Maradona è stato domine Dio, ma uno è quello che suda tutti i giorni con quei ragazzi, che sa chi è, come, chi non è, e che sa quello che conta per la partita, che cosa conta per questi giocatori. Maradona non lo può sapere, perché Maradona non è stato là a soffrire con loro. Maradona giustamente porta in giro per il mondo il suo status di Maradona. Ma cosa fai? Ti viene a fare lo zio ricco che ti viene a dare il buffetto prima che vai a fare la prestazione? Io, prima di dover fare l'esame di laurea, la discussione, la tesi dell'esame di laurea, o stavo da solo perché raccoglievo i miei pensieri, o al massimo, non lo so, volevo sentire mio padre, mia madre, chi aveva seguito i miei sacrifici e altro, ma non certo uno che stio. Posso avere affetto, passione, ma che ne sa di quello che io, di quanto io ho sbuffato e sofferto per arrivare fino a là? E questo vale per tutti, e ripeto, non è un discorso è una critica costruttiva che io condivido abbastanza, nel senso che, ripeto, a me quell'immagine un po' turba, perché anche nel me, momento, non credo che sia andato lì a fare un sermone, ma no, non credo, e non credo ovviamente che se Napoli ha perso 3-1 sia per colpa del Maradona, anzi forse l'inizio, come diceva Bruno Giordano, e ci può stare anche questo, l'inizio positivo del Napoli magari sarà stato spinto anche da Maradona, però insomma in generale in una partita così importante, così carica, per una squadra relativamente inesperta e giovane, insomma, mi sembra che ci sia stata una quantità di, cioè, secondo me un conto è il marketing, un conto è la bellezza per Napoli di questi tre giorni, alla quale hanno concorso i tifosi che si sono comportati benissimo, il calore, l'affetto, Maradona, Sorrentino, Maradona, Silvio Orlando, De Laurentiis, che giustamente ha fatto l'ambasciatore di Napoli nel mondo, la città di Napoli, però, secondo me da questo punto di vista lo deve ringraziare, perché veramente ha fatto un servizio, secondo me, alla città, nel fare sì che tutti i vanti di questa città viaggiassero con lui per sostenere la squadra, perché era veramente il viaggio di una città intera, De Luca compreso. Però poi la parte tecnica, lo spogliatoio, io chiudo la chiave, se sono Sarri, chiudo la chiave, siamo noi qua dentro e tutto il mondo fuori, come dice Vasco. Ecco, io la vedo, sì, un po' così, però come tutti i grandi allenatori hanno sempre fatto, di qualunque sport. A me ricorda, perché dico, quando ero piccolo ebbi la fortuna, una volta che giocavamo una semifinale di un campionato di calcio giovanile, davanti a Pietro Mennea, che venne a scuola nostra a guardare la partita, e noi eravamo super esaltati quando segnai, corsi ad abbracciare Pietro Mennea, avevo 10 anni, ma io ero un bambino, e quello era il VIP, il campione, il VIP che arrivava là. Però giustamente dice Pierre, è stata una sorta di mettere il Napoli in vetrina nel mondo, ci sta. Ma non devi per forza farlo nell'albergo della squadra. Mi sta benissimo se tu voglia fare un evento collaterale, una sorta di festival Napoli International a Madrid. Mi ricordo prima del maledetto per i tifosi della Roma 7-1 di Manchester. La Roma aveva giocato una bellissima partita d'andata, aveva vinto 2-1, poteva vincere anche con un maggiore scarto. Una sessione di allenamento con 1000 persone in tribuna durante l'allenamento della Roma a Old Trafford. Non lo so se è un grave errore, magari senza le 1000 persone avrebbe perso 7-0, cioè non è quello il punto, però ho la sensazione che nel mondo del calcio, che è un mondo che vive di equilibri sottilissimi, precari e a volte anche un po' assurdi, no? Di dinamiche anche un po', ripeto, anche un po' assurde, partite così importanti devi evitare vivere, qualsiasi distrazione. Sono d'accordo con te, Pierre. Ci fermiamo per IGR, ma torniamo subito dopo. Ma con loro? Facciamo una cosa, Palmeri e De Luca, mangiate una quarantina di croquetas, contatele e poi ci sentiamo dopo la pace. Tutti convocati. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti, ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 con Giovani Talenti. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Mi stavo perdendo a parlare di magliette con Pardo guardando quella gialla dell'Arsenal, maniche nere. Finale della Coppa delle Coppe 79-80. No, le mie preferite... Con 5 anni. Arsenal avevo mi piace 5 anni ed ero timido nei panni di un ribelle visto dalla televisione. Tra poco la forza dell'amore. Tra poco parliamo di compleanno, ti faccio pure cantare ancora. Ma no, magliette Arsenal mi fa impazzire, quella classica dei Gunners rossa con le maniche bianche. Guarda, Valencia Arsenal. Guarda, guarda perché mi sono innamorato. Guarda. Ma quella però aveva le maniche gialle, no, maniche blu. Maniche... maglia gialla con maniche blu, con la seconda maglia con storica blu. Con risvolto blu. Massimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Genta, buongiorno Pardo. Buongiorno, buongiorno. Sono Massimo. Come sta, volevo Massimo? Volevo dire la mia rispetto al discorso Real Madrid Napoli. Premesso, sono tifoso milanista, quindi c'entra niente. Però tutto questo polemica rispetto a quello che avete detto, no? Attaccarsi a Maradona, allo spogliatoio, così secondo me c'entra poco, non credo che abbia influito, soprattutto che sono professionisti. No, ma invece è questione di dettagli, no? Io non ho certezze, veramente non ho certezze, ho solo detto fa che strano. Quell'immagine lì mi ha un po' turbato, ribadisco, premesso che poi Maradona è uno che pagherei dei soldi per incontrarlo, ha turbato ancora di più, hai ragione, la richiesta di Sarri del prepartita a me turba addirittura di più dell'immagine di Maradona nello spogliatoio, se mi permetti. Poi diciamo quello che avete detto, appunto, che ma mettavate in dubbio che poteva essere magari un fattore che avrebbe potuto nuocere alla squadra, i giocatori, secondo me no, insomma la squadra è forte, va a Madrid, se la gioca. Sì. Questo sì. Volevo dire. Sì, io credo che ci sia una componente, diciamo, di normalità. Quando noi parliamo dell'abitudine che certe squadre hanno e che altre hanno un po' meno, è esattamente questo, no? Cioè il Real Madrid, se deve giocare col Napoli, non è che prende i vecchi della storia e li porta lì, no? Perché è abituata ed è normale. Io credo che questa trasferta, che ripeto, da un punto di vista complessivo, sociale, sociologico, culturale, è stato un grande biglietto da visita per Napoli e io sono entusiasta e penso che quindi sia stata positiva. Dal punto di vista strettamente tecnico, tutte queste cose che noi abbiamo visto a margine, spero siano rimaste a margine, ecco, non so come dirti, spero che i giocatori comunque non siano stati in nessun modo distratti, condizionati o sovraccaricati da tutto questo tipo di clima, perché l'abitudine, la mentalità è anche quella certe volte di vivere certi passaggi della storia, certo, come cose normali. Ma guarda che i grandi allenatori dello sport, posso elencarti una fila infinita di diversi sport, hanno sdoganato la teoria dell'allenamento a porte chiuse, con squadre vincenti. Ed è una pratica normale, una prassi normale ormai. Quindi è sempre un gioco di dettagli, no? Un gioco di piccole. Sono i piccoli dettagli che possono fare la differenza in un senso o nell'altro. Chiaramente nulla di questo è decisivo. Poi vince chi è più forte. Però altrimenti le squadre non andrebbero in ritiro, altrimenti le squadre non avrebbero dei loro riti. Perché comunque poi in campo bisogna dare il 110% di quello che puoi dare, quindi qualsiasi cosa ti distrae, poi ripeto, non sarà stato Maradona, anzi Maradona è possibile pure che abbia aiutato nel manca la controprova. Però questo cinema attorno alla partita, ripeto, va un po' turbato. Domenico, buongiorno, dica. Do una buona giornata a tutti. Come allora va? Io sono un campano, entro in contrasto un po' con i napoletani, faccio la differenza, io sono un tifoso, ma prima di tifoso sono uno sportivo e sono tifoso della Juve, quindi quasi tutti nei social juventini hanno augurato di vincere in Spagna. E poi abbiamo visto che all'aeroporto hanno saltato tutti, e se non salti non sei juventino, cioè, voglio dire, purtroppo si è creata quella situazione. Ma non è adesso, poi, però mi scusi, cioè adesso io non è polemica, no, però ma tutt'altro, dire. Io sono contento che se lei ha tifato per il Napoli perché è una squadra italiana, penso che molti tifosi della Juve legittimamente, proprio senza che ci sia niente di male, invece abbiano gufato, e comunque sia, non è che se adesso i tifosi del Napoli cantano chi non salta è bianconero deve essere un problema, così appunto, come se quelli della Juve cantano chi non salta è della Roma o del Napoli, cioè fa parte della dialettica, se no se togliamo pure questo è finita. Non lo so, mi dica lei. Cioè diventa tutto un po' asettico, no, Domenico? È chiaro che la rivalità c'è. se la potevano anche risparmiare, questo volevo dire. Ma sì, poi, sì, come no, voglio beh, dire, la rivalità, non la rivalità sembra, in questo momento è una delle rivalità centrale più grosse che c'è nel calcio italiano. È chiaro che Napoli vede la Juve come la squadra che è prima in classifica e vince il campionato da anni, che si è comprata fra l'altro il suo ex attaccante, insomma è ovvio che ci sia rivalità. Io non credo ci siano stati molti interisti, cioè, che hanno tifato Juventus nella finale di Champions League col Barcellona. Anzi, ma anche fra una settimana a Porto, io penso che molti tifosi dell'Inter, esatto, ti faranno per il Porto, così come molti tifosi del Napoli ti faranno per il Porto. Quindi non, questo, ripeto, fa parte della ragione per Luigi della normale dialettica. Un paio di voci di Europa League rapide. Abbiamo la Roma e la Fiorentina in campo con due avversari difficili, Villarreal e Borussia Mönchengladbach rispettivamente. Fazio per la Roma, Bernardeschi per la Fiorentina. Dobbiamo giocare con intelligenza e dobbiamo mostrare nostra esperienza, no? Noi dobbiamo rispettare a loro. Sappiamo che Italia-Germania non è una partita semplice, no? Come ho detto tu prima, perciò c'è sempre un po' di fuoco dentro, diciamo, e bisogna saperlo accendere. Bernardeschi tra l'altro compie oggi 23 anni, un altro compleanno di questi giorni. Leggevo che insomma 15 il Papu Gomez ha compiuto gli anni, il 16 il personaggio di cui parleremo adesso, 17 Michael Jordan, 18 Baggio e Bernardeschi. Tu compi gli anni, dichiariamo pubblicamente così faremo un nome. 4 marzo. Siamo vicinissimi, siamo, sì. siamo alle porte. La tragedia è imminente. Ma c'è stato un altro compleanno importante, quello del 16, Valentino Rossi. Schifosamente vecchio. No, dai. No, vabbè, dai. Tanto cosa vuoi fare? È così. Speravo che andassero indietro, ma invece continuano ad andare avanti. Sono forti. È che passano presto. Leo Torrini, quando compì gli anni? Io fra poco più di un mese, 18 marzo, Gufi, vi ho sentito prima, Rosiconi, l'uomo di marzo, che sei pesci? Sei pesci? Sì, beh, un grande ex del calcio italiano, Matteo Renzi, Gufi, Rosiconi, vi ho sentito prima. Volevo però dirvi che invece Valentino Rossi, non solo perché è il suo compleanno, è uno dei pochissimi che in Italia da 20 anni mette tutti d'accordo. Sicuramente. Possiamo riconoscere. Parlavo ieri con suo padre Graziano. Sì, abbiamo letto l'intervista. E allora gli ho detto: senti, ma questo ragazzo che hai cresciuto sembra un Peter Pan, no? Anche adesso fa i test in Australia, uno che rifiuta l'idea dell'invecchiamento. E invece Rossi Senior mi ha detto: ma questo è un errore che fanno in molti. Mi ha detto: se mio figlio è un Peter Pan che si fa un mazzo grande così, perché dice tu non sai con quanta dedizione si sia sacrificato durante l'inverno, perché vuole veramente questo decimo titolo mondiale. Quindi insomma non dovremmo vedere in Valentino solo l'eterno fanciullino, no? La poetica, anche se ha quella faccia da ragazzino, che ha fatto degli studi da Petrarca in giù. Pascoli. Il fanciullino di Pascoli, come direbbe l'amico e collega Marco Nosotti, molto bene. Ma dovremmo anche apprezzare, credo, proprio ulteriormente questo miracolo di longevità, perché alla sua età è ancora lì e praticamente comincia già a trovarsi in pista avversari che potrebbero anche, direbbe ormonalmente pardo, essere figli suoi. Senti, ma il maschio pesci non si batte, con tutto l'affetto per Valentino, però. Per forza siamo in tre qua, tre su tre, ragazzi. Ma la superiorità, ma anche perché essere stati concepiti in quel periodo di giugno, no? Con quel senso dell'estate che sta per arrivare, cioè, esatto. Ti mette quel buon umore addosso che poi ti porta tutta la vita. È oggettivo. Voglio dire, anche quando siamo fermi sulla Pero Cormano, tra parentesi diamo le notizie del traffico, pare ci sia Sarri fermo una piazzola perché De Laurentiis si è rifiutato di pagargli il pieno della macchina. Io non so come finisce questa storia, ma ne avrete parlato molto, immagino, no? Cosa ne pensi? Madrid è una partita che giustamente tutti dicono, anche storica, 30 anni dopo il Napoli di Maradona eccetera, e alla fine il presidente del Napoli fa questa sceneggiata che manco Mario Merola ai tempi di Zappatore. Voglio dire, tra l'altro Merola somigliava molto fisicamente a Pardo, posso dirlo. Pardo è un grandissimo tu sei il Mario Merola dei telecronisti, hai capito? Sei il nostro ozzappatore quando ci sono le partite di calcio, ci trasmetti proprio un senso di partecipazione emotiva, bravo, io siamo tutti sì, no, l'ho sottolineato ieri io quando sono... urlava Parì, bravo, ma avete detto quell'altra cosa come se la Juventus avesse assunto Frank De Boer, ne avete parlato o no? No, in che senso? Allora lo dico io, chi è il nuovo direttore tecnico della Mercedes? Formula 1, yeah. Un signore che si chiama James Allison, o se preferite Frank De Boer, licenziato in tronco da Marchionne e Maranello poco più di 6 mesi fa, e l'hanno preso a Stoccarda. Ma è una cosa che altro che fermarsi sulla Piero Cormano a riflettere, hai capito? Cioè, quelli che perdono mandano via il presunto responsabile che viene assunto in pompa magna da quelli che vincono. Ma io non lo so, ma poi era già capitato, guardate, amici fermi su Piero Cormano, nel 2011, così non parliamo male solo di Marchionne, in Ferrari c'era Montezemolo che in una notte cacciò l'allora direttore tecnico Aldo Costa. Sì. Qualcuno di voi se lo ricorda? Sì. Poi io è andato a lavorare Aldo Costa 3 giorni dopo, con manco fosse Mazzarri alla Juve, alla Mercedes. Certo. E infatti poi ha vinto tutto. Allora dobbiamo chiederci cosa sta accadendo. Io non lo so, Cassano non gioca più a pallone, la Ferrari licenzia i suoi ingegneri e questi vengono assunti dalla Mercedes, De Laurentiis va al Bernabeu e fa una sceneggiata contro il suo allenatore, non ci si capisce più nulla, uno alla fine rischia veramente di credere che Gentiloni sia capo del governo. Ma Maradona, stiamo discutendo anche dell'effetto Maradona nello spogliatoio del Napoli. Come se, non so, Niki Lauda andasse a parlare. Ma io ricordo una volta che eravamo io, Valery Borzov, Paco Pegni, eccetera, stavamo alle Olimpiadi e bisognava motivare assolutamente Novella Calligaris perché conquistasse quella medaglia nel nuoto, e facemmo arrivare Ondina Valla, che nessuno di voi ricorda, ma che fu la prima donna italiana a vincere l'oro a Berlino nel 1936 per un'atletica. E Ondina Valla, su nostra richiesta, gentilmente fece un discorsetto a Novella che poi salì sul podio. Quindi magari De Laurentiis, portando Maradona a dare la tattica ai ragazzi ieri, pensava di ottenere lo stesso effetto, ma come ci insegna Pardo, c'è ancora la partita di ritorno. Esatto. Sì, esatto. In cui il Napoli sarà la Ferrari e Real Madrid la Mercedes, immagino. Beh, adesso sai, tutti noi a Maranello, dopo aver visto Paris Saint-Germain-Barcellona, ci siamo svegliati dicendo che bello se la Mercedes facesse la fine del Barcellona, no? Quindi non precludiamoci nulla, finiscono anche i grandi imperi, potrebbe anche capitare sì, Real Madrid. Ma sì, fra 15 anni, dai, fra 15 no, anni. No, speriamo fra 20 giorni, quando c'è il ritorno. Perché devi ah dire no, che... Napoli sì, dai. Basta un 2-0, basta un 2-0. Quello si salta. Basta il 2-0, lo mettiamo tra molte virgolette. Posso dirti una cosa, una delle poche cose che non abbiamo detto su Napoli Real Madrid, che secondo me il Napoli non ha... poi finirà ovviamente 2-0, a questo punto me lo auguro, non ha nella testa la possibilità del 2-0, cioè secondo me il Napoli dovrà fare una partita, gli hanno anche chiesto a Sarri ieri che non ha risposto, non so che tipo di partita farà, secondo me il Napoli è più facile il 4-1 del 2-0, come tipo sì, di... Beh sì, perché secondo me l'idea della partita bloccata, perfetta, il 2-0 lo fai soltanto con una partita molto attenta, in cui aspetti, trovi un gol... in qualche modo trovi un gol, fai un'accelerazione che ti porta ad avere un gol. Beh, come logica vorrebbe. Sì, e poi nel finale provi a stare 1-0 a 20 dalla fine e te la giochi, cioè te la devi giocare sul filo perché al primo errore sei finito, te la giochi sul 2-0. Invece come il Napoli, come tipo di atteggiamento e con la spinta del pubblico, proverà a fare la partita che ha fatto il Paris Saint-Germain l'altro giorno, per dirti. Cioè una partita di dominio assoluto, di pressione assoluta, di... e poi chiaramente può andare bene o può andare male. È difficile, però il 2-0, cioè la partita di attesa scientifica, chimica, la vedo difficile. Non la vedo nelle corde, non la vedo nelle corde del Napoli. La Juve se la giocherebbe per il 2-0. Il Napoli, secondo me, è una squadra che deve scendere in campo. Cioè la Juve se la gioca, può anche speculare come atteggiamento. Sì, sì, sì. Quindi perché è più solida dietro. Però avremo modo di parlarne. Un'ultima cosa, Leo Turrini, gli ultimi SMS di Pioli. Ce li sveli, per favore. Tu diciamo che sei la nostra spia, la nostra Matari nel rapporto tra Pioli e l'Inter. Non posso parlare. Io non posso. Che... stare fermo con le mani nelle mani, bravo, e poi bravo. Noi andiamo avanti. Andiamo avanti, c'è anche una lunga tradizione di vernacolo. Ascolta. No, non vi posso dire le opinioni che ci siamo scambiati sulla eccellente esibizione televisiva di Rizzoli dalle Iene o dove diavolo era, perché questi sono segreti d'ufficio, però credo di poter dire che ci siamo riconosciuti in quell'analisi di Gene Gnocchi, che già era stata mia, che nella famiglia Elkan il più equilibrato è l'Apo. Questo è quello che pensiamo con molto tatto, con altrettanto garbo, considerando chiusa la polemica. Va bene, ci sentiamo per lo spogliarello. No, ci sentiamo il 24, spero, per lo spogliarello, perché lì a Bravo si alzano i veli sulla Ferrari. E cosa ti ho detto? Ci sentiamo per lo spogliarello. Lì il spogliarello, siamo partiti Valentino Rossi, io pensavo a Belen là con gli annone, capito? Avevo un riflesso mentale diverso. Ho visto una foto di Belen con la tuta alla moto, l'hai vista? Sì. Io non so come mai parlo sulla notizia, quando sono cose fondamentali del nostro mestiere. C'è proprio caduto l'occhio, perché è un bravo giornalista. Era una tutina abbastanza attillata, con una, fra l'altro, con una una cernierina. Ascolta, hai notato, bravo Pardo, complimenti, un grande futuro per questo ragazzo, l'avevo detto anche prima e lo confermo. Complimenti. Ciao, se dipendesse solo agli ormoni sarei Letterman. Vabbè, comunque, insomma, un Pardo in grande forma oggi. Le faccio i miei complimenti. Raffaele, buongiorno. Buongiorno. Proviamo a io voglio stare. Riagganciare Proviamo. Al discorso Napoli, sì. Dove io sono fondamentalmente d'accordo con il fatto, nel senso che mi è sembrata proprio una sceneggiata napoletana. Hanno peccato molto di provincialismo, nel senso, come lei diceva, non sono abituati a giocare a certi livelli, quindi un sedicesimo di finale era considerata la partita della vita. Un ottavo, scusami, la partita della vita, quindi. Comunque io dico che Sarri ha peccato di poca personalità. Poca personalità. O troppa personalità. C'è pure che imputa al Napoli aver fatto l'errore opposto, no? Di non essere stato sufficientemente umile. Ma in fondo, poca personalità perché? Cioè, non lo so. Io comunque ribadisco, vorrei distinguere non due aspetti. Non poteva certo cambiare la perché squadra. Il fatto che ci sia stato un esodo così bello e così grosso e che sia stata una cosa così grande per Napoli città è una cosa bella, non è una cosa provinciale. La cosa importante, l'unico dubbio che ho, è che tutto questo entusiasmo e tutta questa bellezza, essendoci anche tra l'altro il regista della grande bellezza mai più adatta questa parola, non abbia in qualche modo distratto, turbato o entusiasmato troppo i giocatori, tutto qui insomma. Però ripeto, è uno scrupolo, non ho certezze. Dunque, c'è la tua amica Elisa Calcamoggi. Ecco la Calca, mi chiedevo, Calca, dove sei? Qui. Eccomi, buon pomeriggio. Eccomi. Allora, Sofia Goggia, oggi terza, cioè ci toglie dalle mani il cucchiaio di legno in questa edizione dei mondiali. Sentiamola subito. Che liberazione! Regalaci il tuo più bel sorriso, ce lo devi, ce lo aspettavamo tutti. Mamma mia, no, è stata un'emozione grandissima, anche perché... Io forse era la disciplina in cui ci credevo di meno, e anzi di sicuro era così perché avevo aspettative più alte per la velocità, e tagliare il traguardo, vedere seconda, medaglia e l'ultima cartuccia che ho sparato, ho beccato il bersaglio, non proprio il centro ma è un 60 punti, quindi no, sono contentissima. Dunque una medaglia arriva all'ultima gara utile, Elisa. Sì, per Sofia Goggia assolutamente sì, purtroppo poteva vincerla in quattro gare e non c'è riuscita nel Super G, l'agitazione, la pressione, la sorpresa, nella combinata era prima dopo la discesa e nello slalom è uscita alla quinta porta e in discesa libera era davanti a tutte, ha sbagliato sul finale ed è finita al quarto posto, medaglia di legno a 7 centesimi dal bronzo dell'americana Vaughn, per cui insomma quelle urla, ha detto giusto, la liberazione finalmente, una festa. Volavano gli stracci nello spogliatoio della compagine femminile e mi sorprende che non abbia detto sono con le migliori come volevasi dimostrare. Lì c'è stato un po' questo battibecco tra due atlete che comunque non sono mai state amiche, l'hanno sempre detto, ma non è detto che bisogna essere poi anche amiche in squadra. Effettivamente hanno due modi, due comportamenti, due atteggiamenti anche sulla neve molto diversi una dall'altra, e alla fine in queste situazioni un po' di tensione si sono create delle incomprensioni che poi, che credo fra di loro abbiano assolutamente chiarito. Forse poi i giornalisti presenti si divertono anche un po' a costruire intorno delle storie, forse un po' esagerate, no, ma sì, se no ci annoiamo, dai. Poi tanto, esatto, è sempre, poi tanto è sempre colpa nostra per definizione, quindi ce la prendiamo volentieri. Grazie Lisa. Ciao Calca. Ciao. Andiamo a sciare, portami a sciare, fammi operare il menisco. Ma se vuoi andare sul gommone, hai detto che vuoi andare sul gommone. Hai ragione, che parlavo già dell'anno prossimo. Io sto già in clima estate, sai quelle cose che si dicono, vediamoci ogni tanto. No, ma la Calca la vedo stravolentieri, anche sul gommone, molto felicemente. Però insomma sì. Dai, abbiamo scavallato, guarda che caldo che fa. Domani ho 27 riunioni. 27. Ci sentiamo al telefono allora. Ci sentiamo al telefono, che è un oggetto, fra l'altro il mio funziona benissimo, quindi è ormai perfetto, sì. Grazie per Luigi, grazie di essere venuto a trovarmi. Ciao. Grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia, a Edoardo Lavezzari in redazione. Non so se domani torna De Luca. Torna De Luca domani? Sì, domani torna De Luca. Hai capito? Va bene, ciao. Ciao.